9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 23 febbraio e questa puntata è particolarmente dedicata a chi usa molto l'automobile, a chi usa talvolta l'automobile, certo sarà meno interessante per chi non ha l'automobile o la usa molto poco, ma insomma gli italiani hanno un indice di utilizzo delle quattro ruote molto elevato, come sappiamo, e quindi è questa la ragione per cui Radio 24 spesso ci occupiamo dei temi relativi alle tecnicalità attraverso cui il politico e l'amministratore inducono il proprietario di autoveicoli a incentivi o disincentivi, tra questi naturalmente ci sono i prezzi, ci sono le tasse, c'è tutto ciò che si paga o non si paga, c'è il road pricing che io per esempio vorrei esteso, nel senso che vorrei che il principio per chi ha un autoveicolo fosse quello che si paga davvero in relazione al suo utilizzo, mentre sono contrario alle tasse proprietarie che si pagano tutti uguali anche se però magari si tiene l'autoveicolo chiuso in garage. Sarei favorevole a un chip montato su ogni auto che ci dica davvero quale tassa di utilizzo della rete viaria pagare a fine anno a seconda del numero di chilometri regolarmente percorsi. Se ne sta parlando in Olanda per introdurla, per esempio. Certo c'è un rischio che sia un po' un grande fratello, ma direi che questo rischio mi sembra assolutamente infinitesimo rispetto al vantaggio di introdurre il principio per cui si paga in relazione a ciò che si consuma e non tanto per tacitare le esigenze di gettito dello Stato. Tra le tanti incentivi e disincentivi che il pubblico dà, decide di dare a chi utilizza gli autoveicoli, esiste naturalmente, ed è compresa la questione dei limiti di velocità. Allora, attraverso quale parametri si deve immaginare che un buon governante, un buon amministratore pubblico debba elaborare i limiti di velocità sui diversi tratti della rete viaria? Esiste naturalmente una modalità di correlazione che fissa, anzi che osserva il rapporto tra i limiti di velocità e le esternalità, per così dire, non solo economiche, cioè la produzione di sinistri e di eventi mortali. Dico non solo economiche perché in realtà poi la produzione di sinistri e di eventi mortali ha esattamente anche, per quanto sia possa fare non ridire qualcuno, delle conseguenze economiche, quindi va poi anche calcolata per queste conseguenze economiche. Ma poi nell'elaborare e nello stabilire gli indici di velocità, il buon amministratore, il buon politico, tra le esternalità negative, cioè tra le conseguenze negative esercitate da un certo limite di velocità piuttosto che un altro, deve assolutamente considerare anche l'impatto che la velocità media di circolazione dei veicoli, stante la realtà delle infrastrutture stradali su cui circolano in relazione a quel limite, produce in termini di economie aggiuntive o diseconomie aggiuntive rispetto al tempo medio impiegato e rispetto dunque alla funzione di trasformazione di quel tempo in denaro e in costi per le imprese di trasporto, come tutte le funzioni di produzione. Io sottolineo che nel nostro paese, questo era un dato di Centro Studi Confindustria qualche anno fa, la funzione del trasporto pesa in media, quando dico in media dico tra tutti i settori produttivi del nostro paese, più o meno per un 3,5-3,6% del valore della produzione, ma naturalmente in settori diversi il costo è molto maggiore rispetto al valore, ed in particolare lo è, lo sottolineo, per quei settori della produzione italiana che sono i più rilevanti ai fini del contributo al valore aggiunto nazionale e soprattutto all'export nazionale, come il mobile, l'arredo mobile, eccetera, eccetera. Ecco, in questi settori, la ceramica, per esempio, in questi settori il trasporto soprattutto il trasporto pressoché integralmente su strada, arriva a rappresentare fino a 5, al 6, il 7, talvolta l'8 o il 10% del valore della produzione. E quindi nel porre gli indici di velocità, i limiti di velocità, bisogna porsi il problema dell'impatto che tutto questo ha anche sui tempi, le funzioni di costo rispetto al valore della produzione di settori importanti della produzione italiana, sapendo che il più dei trasporti nel nostro paese avviene su gomma, avviene su spostamenti brevi e medi piuttosto che lunghi, e quindi su tratti stradali e soprattutto autostradali. Questa è la mia premessa da liberale. In concreto però, quando si tratta di arrivare al dunque, dopo che vi ho spiegato che cosa bisognerebbe fare, ci si divide sempre tra quelli che dicono meno veloci perché così si consuma di meno, lo abbiamo visto ieri dopo le parole del ministro, soprattutto si muore di meno, e chi dice ma lasciateci andare un pochino più veloci perché altrimenti noi non ne possiamo più. Già qui c'è un problema di infrastrutture che non consentono grandi velocità. Se per di più ci abbassate la velocità fino a 90 km orari sulla Bologna-Firenze come propone il ministro, ma allora tanto vale, non dico tornare alla bicicletta, ma poco ci manca. Ecco, oggi dedichiamo la puntata all'argomento come considerare la velocità in funzione di quale conseguenza, perché ieri mi è capitato di leggere un paper, un documento, una ricerca che vi consiglio di leggere, secondo me molto ben fatta, che ripropone tutti questi temi aggiornandola alla luce di una serie di calcoli che oggi vi proporremo. E innanzitutto l'autore di questa ricerca è Francesco Ramella, è collegato con noi. Buongiorno Francesco Ramella, che è ingegnere dei trasporti, ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, tra gli ospiti di oggi poi abbiamo Pier Giorgio Stifoni, senatore della Lega Nord, che propone l'innalzamento sulla rete autostradale dove ci sono i tutor. Buongiorno senatore Stifoni. Buongiorno a voi, buongiorno. Abbiamo poi Silvia Velo, che è vicepresidente del PD della Commissione Trasporti della Camera. Buongiorno onorevole Velo. Buongiorno a voi. E Giordano Biserni, che è presidente dell'ASAF, cioè l'Associazione Amici Polizia Stradale. È giusto tenere conto anche della sicurezza rispetto a chi propone innalzamenti o è contrario agli innalzamenti, ma considerare anche l'aspetto della sicurezza. Buongiorno Biserni. Buongiorno a lei, ascoltatori. Allora Ramella, che cosa dice in questo suo nuovo paper? Bisogna alzarla la velocità alla luce delle esperienze della rete autostradale tedesca oppure no? Dunque, il problema è complesso, ma possiamo porlo in due termini. Partiamo dalle ultime proposte del Ministro dell'Ambiente, che poi ha precisato di essere una decisione già presa, ma una valutazione in corso di esecuzione. Riduciamo i limiti per ridurre l'inquinamento. Questa è una delle tante proposte che negli ultimi giorni sono state avanzate di fronte a quella che ci viene presentata come un'emergenza smog. Un'emergenza che in realtà i numeri ci dicono non esiste. Se noi andiamo a vedere i dati ufficiali dell'ARPA di qualsiasi regione italiana, vediamo che sono ormai due o tre decenni che l'inquinamento si riduce. E si riduce non perché abbiano avuto successo le politiche auspicate da quasi tutti gli schieramenti, quindi politiche di riduzione dell'utilizzo dell'auto, ma l'inquinamento si è ridotto grazie soprattutto a un fattore, che è la tecnologia. Oggi siamo ad un livello di inquinamento che è un quarto, un quinto di quello di 20-30 anni fa. Si può ancora migliorare, ma i miglioramenti sono molto ridotti. Se noi possiamo immaginare quando puliamo un ambiente in cui viviamo, l'obiettivo che ci poniamo non è quello di arrivare a un livello di pulizia zero. C'è un certo punto oltre il quale riteniamo non più conveniente andare. Ecco, noi per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico siamo in una condizione di questo tipo. Abbiamo già fatto l'80%, resta un 20%, dobbiamo paragonare costi e benefici. Sicuramente sappiamo che più andiamo avanti, più la riduzione di inquinamento verrà costosa, quindi tutti i provvedimenti che prendiamo d'ora in avanti hanno un costo crescente, quindi dobbiamo valutare i due aspetti, come dovremmo fare sempre e normalmente non facciamo. C'è una stima della ARPA della regione Emilia-Romagna che dice che riducendo i limiti da 120 a 80 km all'ora si ridurrebbero le emissioni di un ulteriore 5%. È molto poco, non cambierebbe nulla nell'evoluzione di lungo periodo, e quindi da questo punto di vista, come il blocco della circolazione che avremo domenica prossima, come l'altro provvedimento, incrementare i pedaggi autostradali, è stato proposto alcune. Abbiamo una serie di misure che continuiamo a proporre, una serie di inasprimenti contro chi utilizza l'auto, che ci fa sembrare appunto chiunque qui diventa mobile come un nemico della collettività. E va bene, io la fermo, su questo, la fermo su questo primo punto delle emissioni dell'impatto ambientale, ricordando per correttezza di informazione, io la penso come lei, ma devo fare il mio mestiere, che chi fosse in ascolto e volesse invece documentarsi sull'opinione avversa, cioè quella della tesi di riduzione dei limiti di velocità per ridurre l'inquinamento atmosferico, trova per esempio sul sito dell'ARPAT, cioè dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Toscana, secondo me la documentazione meglio fatta tra quelle che conosco, tra le diverse agenzie in Italia, che si riferisce ai casi internazionali in cui questi provvedimenti di limitazione sono stati assunti a fine specifico di riduzione delle emissioni, con i casi poi approfonditi con relativi documenti delle città tipo Barcellona e Rotterdam. Però fermi su questo punto ambientale, andiamo poi invece a quello della mortalità sinistri e funzionalità o disfunzionalità economica dei limiti di velocità. Ramiro. Certo, quando è stata proposta da un sceneggiatore leghista la proposta di innalzare i limiti di velocità, abbiamo avuto due posizioni. Chi sostiene la misura dice: lo facciamo, possiamo andare più velocemente, non ci saranno conseguenze negative in termini di sicurezza. Dall'altra parte si è addirittura parlato di una possibile strage. Credo che entrambe le posizioni non siano supportate dai numeri. La letteratura che si occupa della sicurezza stradale è quasi unanime, ci sono anche in questo caso, non c'è unanimità, ma c'è una forte maggioranza di studiosi che si basano su dati empirici, che ci dice quanto più aumenta la velocità media, se noi aumentiamo i limiti di velocità aumenta la velocità media con cui procediamo in autostrada, tanto più crescono il numero di incidenti e loro gravità. Andiamo più forte, maggiore spazio per frenare, più probabilità di avere incidenti, e nel caso ci siano incidenti le conseguenze sono più gravi rispetto a un sinistro che avviene a velocità più basse. Ma allora, perché in Germania, dove i limiti non ci sono, sono solo consigliati nella vasta maggioranza della rete autostradale, ci sono meno morti sinistre che da noi? Questo è uno degli argomenti che ho portato, si basa sul cosiddetto post hoc prop per hoc. Non è così, è vero, la Germania ha un ottimo record in termini di sicurezza autostradale, il tasso di mortalità è praticamente la metà rispetto a quello italiano. Altro dato importante, questo tasso di mortalità si è ridotto del 90% negli ultimi 20 o 30 anni, quindi le cose vanno meglio che in Italia, vanno molto meglio che in passato. Questo però non ci consente di dire che aumentare, togliere limiti di velocità non avrebbe conseguenze negative. Il livello di incidentalità, scusatemi, è dato da molti elementi: uno è la velocità, ma altri sono le condizioni della rete, quanto traffico pesante c'è. Molto importante il comportamento dei guidatori. Quindi per vedere se andando più veloce ci sono più o meno incidenti, noi dobbiamo confrontare due situazioni dove tutti gli altri parametri li possiamo considerare invariati. Abbiamo due esperienze di questo tipo, una è quella francese metà degli anni 70, una è quella recente sulla rete autostradale italiana con l'introduzione del sistema Tutor. Ed entrambi i casi ci dicono che pochi mesi prima e pochi mesi dopo l'adozione, in un caso del limite, nell'altro caso un rafforzamento del controllo, quello che viene con il tutor, effettivamente c'è una drastica riduzione del numero di incidenti e di morti. Quindi da questo punto di vista ci sono, io credo, pochi dubbi. Lei dice: nel primo anno di applicazione dei tutor la velocità media è diminuita del 15%, gli incidenti si sono ridotti del 19%, il tasso di mortalità si è dimezzato. Questi sono i dati che fornisce Autostrade per l'Italia, che credo siano del tutto veritieri. Però non finisce così. Ecco, bisogna fare l'ultima parte del ragionamento. Quella, lo avviso chi è a casa, e lo dico agli altri ospiti, che farà sobbalzare alcuni, perché si tratta di paragonare i sinistri che diminuiscono e i morti che diminuiscono con funzioni di costo, e immagino che alcuni di fronte a questo adesso si faranno venire i capelli ritti in capo. Prego Ramella, per la parte conclusiva del ragionamento. Per la parte conclusiva abbiamo appurato questo: più velocità significa maggiore incidentalità. Chi critica la misura dice questo è inaccettabile, non lo possiamo fare. È un punto di vista certamente basato su un ragionamento non eludibile, però se volessero essere coerenti, coloro che sostengono questa posizione non dovrebbero solo opporsi ad un aumento del limite di velocità, dovrebbero richiedere anche una riduzione. Oggi siamo a un limite di 130, se lo portassimo a 110 l'incidentalità, il numero di morti si ridurrebbe, a 90 si ridurrebbe ulteriormente. Se noi utilizziamo come unico parametro quello della sicurezza, la conclusione logica sarebbe quella di portare i limiti di velocità a zero, ovvero di non muoverci più. In questo modo ridurremmo a zero l'incidentalità. È un punto di vista che molto spesso nelle decisioni politiche viene sostenuto. Si fissa un solo obiettivo e non si considerano tutti gli altri. Ovviamente c'è, come tutte le misure, comporta dei pro e dei contro. Andare più piano significa ovviamente impiegare più tempo per i nostri spostamenti. Andiamo allora a quelle che sono le preferenze individuali espresse da tutti noi, dalla maggioranza degli italiani, e in parte questo c'è un modo di sentire che in realtà non corrisponde alla realtà, che gli italiani utilizzerebbero molto di più l'auto rispetto agli altri europei. Così non è. In Italia, come in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, nella stessa Svizzera, circa l'80% degli spostamenti avvengono su auto. Avvengono su auto nonostante il trasporto individuale sia meno sicuro del trasporto collettivo. Se noi prendiamo un treno piuttosto che un pullman, invece che muoverci con la nostra auto, abbiamo un livello di sicurezza molto maggiore. Diciamo un rapporto di 1 a 10. Non si perda allora, perché stiamo prendendo troppo tempo. Andiamo al punto. Allora, vediamo qual è l'effetto di una velocità media più bassa in termini economici rispetto a morti e sinistri. L'effetto stimato in base a quello che sarebbe, io ho ipotizzato che portando su tutta la rete autostradale italiana, in realtà il provvedimento riguarderebbe tratte molto più limitate, da 130 a 150 la velocità media crescerebbe da 120 a 130. Questo significa un risparmio di tempo, è stato valutato in circa 80 milioni di ore. Se noi lo traduciamo in termini monetari, abbiamo un risparmio annuo di circa 1 milione di euro. Questo possiamo decidere di non farlo, questo confronto, oppure sì, lo confrontiamo con i maggiori danni in termini di feriti e di morti, e se noi valutiamo gli aspetti positivi e quelli negativi, prendendo di nuovo stime di un istituto tedesco, quindi di tendenze piuttosto ambientaliste e non molto favorevole all'utilizzo dell'auto, vediamo che i benefici che abbiamo in termini di riduzione del tempo sono maggiori rispetto a quelli ai danni dovuti all'incremento di incidentalità. E questo corrisponde a quella che è la scelta, appunto, che la maggioranza delle persone fa tutti i giorni. Resta da ricordare ancora che in ambito autostradale il livello di sicurezza è molto maggiore rispetto a quello della rete ordinaria. L'Italia ha un pessimo record di sicurezza rispetto agli altri paesi, ma i problemi più importanti non sono sulle autostrade, sono sulla rete ordinaria. Dunque, per quanto possa far inorridire un pochino, il valore negativo rappresentato dal maggior numero di morti e dalla maggiore incidentalità sarebbe comunque un valore inferiore rispetto al valore perduto conseguente al maggior tempo medio di percorso e quindi alla crescersi della funzione di trasporto che peserebbe su molti settori dell'economia. Mi rendo conto che alcuni dicono come state facendo i conti, però i conti quando si tratta dell'utilizzo di infrastrutture si fanno anche così. Ora, dopo questa prima parte della trasmissione fatta per spiegare questa premessa, andremo nella seconda poi a sentire chi pensa davvero in politica ad alzarlo e a diminuire i limiti e poi a vedere qual è l'impatto per chi si preoccupa soprattutto della sicurezza. Eccoci tornati in studio, alzare i limiti di velocità sulle autostrade. Abbiamo appena sentito spiegare diffusamente dall'ingegnere Francesco Ramella che alzare da 130 a 150 la velocità massima sulle autostrade potrebbe indurre a 10 km medi di velocità media in più e questi 10 10 km di velocità media in più significherebbero, sì, forse, probabilmente, sicuramente, più morti e più sinistri, stimati però intorno a 300 milioni, ma il vantaggio conseguente, per quanto vi possa fare inorridire, ma bisogna farlo questo conto, per il sistema economico italiano e per tutti quanti sarebbe sicuramente maggiore del computo sinistri e anche mortalità e feriti gravi e lievi. Su questo iniziamo a sentire subito come la pensano i politici. Onorevole Velo, vicepresidente PD della Commissione Trasporti della Camera, questo ragionamento la convince o non la convince? In che cosa e sui limiti lei pensa che si debbano tenere, abbassare o alzare? Non mi convince, non del tutto, ma non perché mi scandalizza che si faccia un calcolo. Mi sembra che le cifre che ci ha dato il professor Ramella, su cui vorrei poi magari documentare, siano un risparmio troppo esiguo. Se si risparmiasse di più si potrebbe anche ragionare. In realtà l'Istat ci dice che la mortalità sulle strade, l'incidentalità, ci costa oltre 30 miliardi di euro l'anno. Quindi non mi scandalizzo, io parlo di sicurezza stradale partendo da questa cifra, quindi figuriamoci se mi scandalizzo se si parla di costi e di risparmi. È giusto farlo, è giusto porsi questo obiettivo. Però secondo me, diciamo, occorrerebbe distinguere, intanto voi l'avete fatto, autostrade e non. La maggior parte degli incidenti avviene sulle strade provinciali, comunali e quant'altro, le autostrade sono sicure. Quindi si potrebbe anche valutare un aumento di velocità, se non che gli stessi organismi tecnici del Ministero, quando il Ministro Matteoli a dicembre fece questa proposta, dissero che le nostre autostrade sono progettate, tutte le nostre infrastrutture, per un massimo di 140 km orari. Quindi al giudizio degli uffici tecnici del Ministero non ci sono le condizioni tecniche per aumentare questo limite di velocità. E poi il tema vero è che i costi del trasporto sono enormi nel nostro paese, come lei ha detto all'inizio, soprattutto per il trasporto merci. Sì. Perché il nostro sistema, non è colpa dei camionisti, diciamocelo chiaramente, siamo un paese fortemente antropizzato in cui le distanze sono piccole, in cui il sistema produttivo è piccolo, è piccolissima impresa, un pacco, per dirsela, fa mediamente 100 chilometri, quindi è impossibile e velleitario dire si porta tutto su ferro o su nave, perché esatto. È impossibile. Il punto è che i nostri camion non viaggiano alla media che gli impone i limiti di velocità, viaggiano molto più lentamente perché le infrastrutture fanno schifo, mi sembra il termine più efficace, perché quando arrivano, anche se fanno un tratto rapidamente tra Bologna e Firenze, quando arrivano a Bologna o a Firenze non mettono delle ore a attraversare le città. Quindi loro non sono limitati dai limiti di velocità, ma dai deficit infrastrutturali. Allora io mi dico, al di là della premessa, le vite umane, gli invalidi permanenti, eccetera, eccetera. Dice, eccetera, forse per velocizzare facciamo meglio le infrastrutture più che alzare i limiti. Quei 30 miliardi, se metà li spendiamo per metà. Magari, magari. Io credo che si risolve, si va più veloci. Poi dopo possiamo, quando abbiamo adeguato la nostra infrastruttura di trasporto, allora ragioniamo di limiti di velocità. Aggiungo una cosa, una piccolissima cosa. Io non sono una che pensa che lo Stato debba educare i cittadini, non ho questa impostazione, ma un messaggio va dato. Uno dei principali cause di morte sulle strade è l'eccesso di velocità. Allora, iniziare una discussione, come ha fatto l'allora ministro Matteoli, sull'aumento dei limiti è un messaggio pessimo, che non si concretizza in niente, perché siamo qui ancora a ragionare di niente, ma che istiga al mancato rispetto delle regole, che secondo me non è positivo. Bene, tranne questo ultimo aspetto, diciamo così, deontologico e relativo al messaggio etico, per il resto anche l'onorevole Velo ha fatto ragionamenti concreti. Dice, vediamo l'impatto dei sinistri sull'economia e la sicurezza, dedichiamone metà, non sarebbe male per niente, a migliorare le infrastrutture, dopo ce ne occupiamo, perché la velocità media sulle infrastrutture dipende molto più dalla qualità delle infrastrutture che dai limiti di velocità. Rispetto a questo, senatore Stifoni, che è tra coloro che invece Social, che ha depositato l'emendamento per innalzare i limiti sulle autostrade fino a 150 come controbatta. Prego, senatore Stiffoni. Sì, prima di tutto, senz'altro concordo con i dati che ha riportato il professor Ramella quando dice che l'incidentalità è soprattutto nelle strade statali, provinciali, comunali e non sulle autostrade. Ma poi volevo fare anche un'altra domanda, cioè al professor Ramella, se ha questo dato, una diminuzione del limite di velocità che cosa comporterebbe sulle autostrade? Forse una minore attenzione alla guida e pertanto una maggiore possibilità di incidenti? Cioè andare a 90-100 km all'ora in autostrada da Milano a Roma vuol dire forse anche addormentarsi? O meglio, avere quella minore attenzione nella guida, guardando di più il panorama, che so, e che potrebbe procurare degli incidenti? Una domanda che mi faccio, che faccio a me stesso e che passo anche agli altri graditi compagni e compagni di discussione oggi. Ma la nostra proposta, l'emendamento che abbiamo proposto, sì, non è così devastante come qualcuno lo potrebbe immaginare. Beh, prima di tutto vorrei dire che già attualmente il codice della strada prevede la possibilità per i concessionari di aumentare a 150 il limite di velocità. Per quelle a tre corsie, sì. Sì, a tre corsie. Ma noi altri diciamo una cosa anche in più. Per avere questo aumento di limite di velocità, queste autostrade a tre corsie devono essere dotate di tutor. E allora veniamo al discorso che faceva giustamente il professor Ramella. La fermo un secondo su questo perché mi interessa la sua opinione, senatore Stiffoni, perché ci sono degli ascoltatori che dicono i morti sulla A4, per esempio, sono drasticamente diminuiti, ma però da quando hanno fatto la quarta corsia, non per il tutor, questo tutor è un po' sopravvalutato per gli effetti. Lei come la pensa, senatore? Beh, guardi, senz'altro la quarta corsia tra Bergamo e Milano è assolutamente indispensabile per il traffico che c'è. Prima di tutto per il traffico, perché prima era assolutamente intasata, adesso diciamo che è meno intasata. Ma il tutor, quando viene fotografata la velocità media, capisce bene che l'esperienza di un mio collega che l'hanno beccato, che è uscito di 3 km all'ora dalla media della velocità. Pertanto è assolutamente valido quel tipo di sistema di controllo. Ripeto, ormai le automobili non sono le automobili degli anni 70, degli anni 80, hanno anche certo tipo di caratteristiche superiori a quelle di una volta. Pertanto, se facciamo la somma di tutto, non penso assolutamente che ci sia una incidentalità così sostenuta come è stato detto. Vorrei dire anche un'altra cosa, questo aumento del limite di velocità, diciamocela tutta, quanti di noi vanno esattamente a 130 km all'ora? Anche considerando, e questi qua sono dati assolutamente realistici, reali, che sforando di 17 km all'ora ed essendo pizzicati da un radar della polizia stradale, la multa è soltanto di 36 euro attualmente. E quindi, insomma, diciamo, c'è un certo incentivo. Uno dice, se ho fretta vado un pochino più forte, guadagno un po' di tempo, però alla fine non mi costa così eccessivamente. Noi diciamo, prima di tutto, che ci devono essere autostrade a tre corsie. Diciamo che ci deve essere controllo acuto che è assolutamente rigoroso, e quando dico rigoroso, se uno sgarra di 3 km certo, gli arriva la multa a casa, e c'è la possibilità di non addormentarsi. Io capisco che la ministro del ambientale vorrebbe che tutti quanti andassimo con il carretto per le strade, ma come si vede la dialettica nella maggioranza, diciamo, oramai è abbastanza aperta, però anche a me ha lasciato abbastanza perplesse le proposte del ministro Prestigiacomo. Chiara comunque la posizione del senatore Stiffoni. Sentiamo un po' di ascoltatori. Nunzio da Bologna come la pensa, per esempio? Prego, Nunzio. Sì, buongiorno. Io faccio l'agente di commercio da 35 anni a 100.000 km l'anno, quindi qualcosina potrei dire. Vorrei dire una cosa per l'autostrada. Io ho fatto Bologna-Copenaghen quest'anno a velocità altissime e non ho visto un incidente in Germania. Però il comportamento di guida di sicuro non è come quello in Italia. Ma io volevo dire... Quindi lei dice... E sono gli automobilisti, sì, a fare la differenza. Sicuramente una educazione autostradale è necessaria in Italia, perché nessuno sa che cosa serve la terza corsia e tutti quanti sono in corsia di sorpasso a 130 dicendo questo è il limite. Ma un'altra cosa, ma le sembra normale che ci siano dei 50 km orari come strade extraurbane fuori dai paesi con delle macchine come abbiamo oggi? Cioè, si fermerebbe l'attività. Io se faccio un incidente a 60 km orari, io ho fatto un incidente per eccesso di velocità, ma è normale questo? Cioè io le parlo di una persona che io sto in macchina 12 ore al giorno a lavorare, se io andassi a 50 km orari come mi dice la legge farei metà visite. Nunzio, mi piace particolarmente perché Nunzio porta la voce di chi utilizza la macchina per lavorare, per accrescere il valore delle funzioni di produzione, e questo è un aspetto fondamentale quando si considera sia lo stato dell'infrastruttura, sia la necessità per i concessionari di investire in sicurezza, sia però anche la velocità medie che bisogna far tenere. Alberto da Milano, come la pensa lei invece? Buongiorno, grazie per l'intervento. Innanzitutto volevo, anch'io sono un grande viaggiatore e vi segnalo subito due cose. La velocità non è il problema, non si può collegare così direttamente al problema degli incidenti, anche perché il limite di velocità, le dice. Sì. I limiti di velocità, sì, io li alzerei, anche perché gli incidenti non sono provocati veramente, cioè è il buon senso che conta, perché io se vado ai 150 all'ora su una strada vuota è meno pericoloso di quello che va ai 100 all'ora su una strada bene, molto trafficata. Ma sono lei dice se non sono i limiti? Sì, sono i limiti di sicurezza, cioè le distanze di sicurezza quelle da tenere sotto controllo, perché se l'autostrada è vuota è evidente che io posso fare. Inoltre vorrei dire, distinguerei quelli coloro che viaggiano dal lunedì al venerdì per motivi di lavoro come me, da quelli che guidano il venerdì sera, il sabato e la domenica, che non sono nemmeno pratici di auto. No, quindi... ma infatti non stiamo parlando delle stragi del sabato sera adesso. Perfetto, non tocchiamo. Sì, in ogni caso l'incidente non va, viene sempre collegato alla velocità. In realtà anche il camionista che va agli 80 all'ora a me non dà alcun fastidio, sono molto regolari, sono molto prudenti, e quando c'è molto traffico le distanze tra automobilisti le teniamo. Perfetto, chiaramente... quindi distanze di sicurezza, ci dice Alberto da Milano. Ecco, ci stiamo occupando di effetto sugli eventuali ritocchi, degli eventuali ritocchi dei limiti di velocità nei tratti autostradali rispetto a vantaggi economici che ne deriverebbero all'economia nazionale e rispetto a di valutazione del rischio di maggiori sinistri e morti e feriti. E devo dire che noi avremmo voluto sentire, per aggiungere argomenti dopo le tesi illustrate da Ramella e dopo l'illustrazione del senatore Stifoni, che è tra quelli del senatore della Lega Nord, che ha richiesto per le autostrade a tre corsie col tutor, come avete sentito, di aumentare i limiti dal 130 a 150 km orari, avremmo chiesto anche all'ANIA, alla Fondazione ANIA per la Sicurezza, di contrapporre degli argomenti, perché sono stati quelli che più esplicitamente si sono dichiarati contrari alla proposta avanzata tra gli altri dal senatore Stifoni, dicendo, stiamo leggendo la dichiarazione del presidente della Fondazione ANIA Sicurezza, Guidoni, dicendo che il problema invece è quello di abbassare la velocità media in autostrada, perché con l'abbassamento della velocità media in autostrada si ottiene la diminuzione dei sinistri, e tutto questo ha comunque un impatto positivo rispetto agli altri obiettivi. Ci sarebbe piaciuto sentirlo, perché poi il ragionamento di Guidoni in realtà va a sottolineare soprattutto l'importanza del tutor, che ha ottenuto l'effetto nei tratti autostradali in concessione in Italia di abbassare la velocità media, se non che il senatore Stifoni, come avete sentito, propone di alzare i limiti di velocità però in permanenza del tutor per le autostrade a tre corsie, e quindi pareva a me che le obiezioni che provenivano e provengono dall'ANIA all'innalzamento della velocità non fossero molto fondate, visto che sul tutor e sulla velocità media di crociera attraverso il tutor si dichiarava esattamente d'accordo sulla stessa cosa che è nell'animo dei proponenti. Continuiamo a sentire altri ascoltatori come la pensano. Giuseppe da Cremona, prego Giuseppe. Ma non c'è mai una soluzione al problema. Assieme alla velocità c'è la segnaletica, ci sono la manutenzione alle strade o alle autostrade, che come si sa è la pessima in Europa, per cui non c'è mai una medicina. Il punto centrale è quello che tutta Italia viaggia su gomma. Questa è la vera anomalia italiana. Non stiamo occupando oggi ferro o non ferro. Ci stiamo occupando il dibattito che vorrei tenere. Limiti di velocità, alzarli o diminuirli. No, ho capito, però le dimensioni del traffico, il volume di traffico inducono un comportamento sulla velocità di un certo tipo. Se tutti viaggiano in automobile è chiaro che io ho un problema, se invece c'è una quota di traffico un pochino più ridotta ne ho un altro. Sì. A proposito del commerciante che sta tutti 100.000 chilometri all'anno in macchina, io non posso dimensionare le misure di sicurezza in base a quel veicolo lì. Io devo dimensionarle in base ad un ragionamento un pochino più complessivo. E ancora, non è la velocità che fa lo in strada che fa lo sviluppo di un paese, perché il nord-est italiano, dove si viaggia a 30 all'ora a Montebelluna, è ricco e No, su questo guardi, su questo non glielo faccio, non glielo faccio neanche dire, perché lei può dire è ricco a prescindere, ma io se vuole le faccio la funzione di quantificazione di quanto prodotto in meno, valore aggiunto in meno, reddito in meno, occupazione in meno ha significato la tragedia delle infrastrutture viarie nel nord-est e in Veneto. Lei non può dirmi me ne frego. Le sto dicendo, non può farmi questo ragionamento. Cioè, lei poi è legittimo, stiamo dialetticamente argomentando in pieno rispetto. Certo. Le sto dicendo, non può dirmi è ricca a prescindere, non è la velocità a contare, perché l'osservatorio del non fare, la Fondazione Nord-Est è da decenni che ci fa il conto di quale impatto in termini di minor reddito, occupazione, sviluppo ha significato la tragedia della Venezia Mestre e di quella velocità media così bassa. 50 metri, non possiamo pensare di transitare da un campanone all'altro 200 all'ora. No, ma non si sta parlando di 200 all'ora, si sta parlando di velocità media che lì erano di 30 km orari, certo, altrimenti andiamo tutti a piedi nell'illusione di restare tutti ricchi. No, la storia del carretto è una cosa che non sta in piedi, insomma, è il volume di traffico che rende difficile tenere una velocità superiore, questo è il punto. Chiarissimo, va bene. Abbiamo capito. Abbiamo capito come la pensa, benissimo, e la ringrazio. E del resto è giusto, perché mi aspettavo che ci fossero anche questi punti di vista, che dice qui c'è troppo traffico, quindi non ci venite a dire che bisogna anche alzare i limiti. Anzi, poche telefonate, troppo filo ambientalista fino a questo momento, me ne aspettavo di più. Ruggero da Roma, che dice? Buongiorno dottor Giannino. Io volevo sottolineare alcuni aspetti. L'eventuale innalzamento della velocità rappresenta la velocità massima raggiungibile, quindi non costringe nessuno di per sé ad adeguarsi. La seconda è che, com'è l'esperienza in Germania, la velocità massima è rappresentativa sostanzialmente della massima velocità in alcuni ambienti tratti autostradali. In Germania ci sono tratti anche dove si va a 30 orari, quindi è la compatibilità con le condizioni che debbono essere migliorate sicuramente. Sul tracciati autostradali tedeschi i limiti sono soprattutto in quando ci si approssima a svincoli, uscite, interconnessione eccetera eccetera, altrimenti nei tratti normali la velocità è consigliata ma è libera, questo è il punto. È assolutamente libera, questo lascia sostanzialmente libero un dibattito con una visione molto più ampia, anche perché la mortalità non è in funzione della velocità massima raggiunta, ma della velocità massima nei tratti, e spesso e volentieri questo potrebbe anche essere causa del fatto che, non potendo camminare da nessuna parte, c'è una sorta anche di costrizione, specie nei soggetti più giovani, di una sostanzialmente un eccesso, superare alcuni eccessi in alcuni tratti dove questo assolutamente non è consentito. Quindi relativizzerei il concetto di velocità massima in alcuni, certo, diciamo, tratti, e non così in assoluto, quindi non demonizzerei, anzi ne sono assolutamente a favore. Naturalmente fare come in Germania significa avere infrastrutture autostradali e viarie come in Germania, quindi rispetto a un paese che poi non le vuole mai fare le autostrade, dopo che le abbiamo bloccate per 30 anni, noi eravamo i secondi in Europa prima del blocco più che trentennale, e naturalmente fare in Germania significa poi avercele le autostrade e non metterci 150 anni per costruire le terze corsie e le quarte corsie. Sentiamo Giordano Biserni, che abbiamo fatto ascoltare tutta la trasmissione, e me ne scuso senza ancora averlo fatto interloquire, presidente dell'ASAP, Associazione Amici Polizia Stradale, quindi la voce di chi si batte soprattutto in nome della sicurezza. Prego Biserni. Purtroppo Giannino, io ho sentito dei dati che partono da posizioni sbagliate. Intanto si parla continuamente della Germania e non capisco perché non si parli, per esempio, della Francia o dell'Austria, che ha sperimentato i 160 e poi se li è rimangiati perché c'era un picco di mortalità da spavento. Perché non si parla della Svizzera, della Slovenia? Quando i nostri automobilisti super esperti vanno in Slovenia, Francia, Svizzera, Spagna, come si comportano? Prima cosa. Poi la Germania, attenzione, state ragionando su dati sbagliati. Perché a livello di autostrade, dopo il tutor, in Italia non prendiamo più lezioni da nessuno, tanto che la Francia li sta adottando proprio in questi mesi. In Germania intanto i limiti, è vero, sono consigliati, per un tedesco un limite consigliato è un ordine e per un italiano un limite ordinato è un consiglio, sono culture completamente diverse, ma la Germania ci dà punti sull'incidentalità stradale e urbana, perché a Berlino abbiamo 2 morti ogni 100.000 abitanti, a Roma ne abbiamo 6, a Roma ne abbiamo, a Milano forse 3-4, quindi il paragone con la Germania parte da una posizione sbagliatissima, che è quella riferita comunque all'autostrada, che non c'entra proprio niente in termini di effetti di sinistrosità. C'è un dato che non ho sentito da nessuno, nemmeno dai grandi esperti, quindi dai tecnici. Ma scusate, il differenziale di velocità, ne vogliamo parlare con i politici? Ne vogliamo parlare con i tecnici? Cos'è questo differenziale di velocità? Noi abbiamo una presenza di camion, visto che ci sta tanto a cuore l'economia, che è del 75% del trasporto su gomma. Noi abbiamo colonne continue in questo momento sulla 14, sulla 1. Certo. Il differenziale di velocità, guardate che aumenta, perché non è che i camion li portiamo a 120, i camion rimangono 80, signori. Quando il camion va in sorpasso nelle tre corsie, va in sorpasso, ti fa un muro d'acciaio col camion che va a 85 rispetto a quell'altro che va a 82, e nella terza di sorpasso si fionderanno tutti gli sportivi della velocità, che in realtà non vogliono mica i 150, sapete, vogliono i 180-190 di media, perché anche questo nessuno l'ha detto. No, 190 di media, guardi, no, non credo che li vogliano. Mi scusi, guardi, allora, la sanzione lo sapete quanto è oggi per chi supera i 100, chi va a 200 km orari, e quanto sarà domani? Cioè, qualcuno mi sa rispondere? Dica. Allora glielo rispondo io. Allora, oggi per chi va a 200 km orari la sanzione sarebbe di qualcosina come 370 euro e 10 punti. Domani, con questo nuovo limite, con la modifica approntata, sarà di 155 euro e solo 3 punti. Solo 3 punti. Quindi questo sarà un pass per poter viaggiare a velocità medie molto più elevate. Poi, il guadagno. Dov'è sto guadagno? Ma voi, non so se vi rendete conto, ad ogni aumento di velocità ci saranno più interruzioni per incidenti anche medi. Va bene, mi pare di capire che Biserni ci dice che abbiamo sbagliato trasmissione, e io di questo non posso che prenderne atto. Io difendo l'impostazione Ramella. Però, e questo era per dire a chi è in ascolto, che posizioni molto serie, perché queste come quelle di Biserni non sono posizioni estemporanee, tanto per, posizioni molto serie, dicono levatevelo dalla testa, per come l'infrastruttura viaria in italiana, come siete voi automobilisti italiani, diversi da quelli tedeschi e ordinati, siccome l'infrastruttura è quella che è, i camion sono tantissimi e vanno a una velocità bassa, media, i limiti, quelli già attuali, sono quelli troppo, troppo elevati, perché altrimenti voi vorreste correre troppo e fareste guai. Io non la penso così, anche perché esiste qualche cosa che per me è intangibile, si chiama libertà, ve lo dico sempre e ve lo dico anche sui limiti. A me il fatto che mi si dica sempre tutto quello che non devo fare non mi piace, e questo è il motivo per cui il gatto Oscar all'inizio della trasmissione, come si ogni mattina fa, ecco, questa è la ragione. Comunque sentiamo anche Biserni, e viva viva naturalmente l'Associazione Amici Polizia Stradale. L'appuntamento è a domani a Linea Giornale Radio, grazie regia Paolo Corleoni e Alessandro Marcotulli, a domani. Mm.